Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sì, l'Italia è ripartita. Rispetto a un anno fa eravamo in questa sala, e ho sbagliato, Angela mi ha detto che era la stessa sala, e solo che era buio a marzo dello scorso anno e quindi non la riconoscevo, non c'era la luce. Insomma, avete capito, fanno gli incontri al buio in Europa. Insomma, non aveva riconosciuto la sala perché era buio l'altra volta. Chissà di chi hanno parlato e come si sono visti in faccia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. E questo ci fa un po' temere. Quindi noi cercheremo di far luce invece sui tanti temi, come sempre, tutti i giorni qui a Effetto Notte, partendo proprio dalla Grecia, perché è di Grecia che si stava parlando, si continua a parlare, ne parleremo ancora moltissimo. D'altronde la situazione è quella che è, anche se è difficile dire esattamente che situazione è. Poi cercheremo appunto di capire qualcosa di più. Parleremo anche questa sera di fecondazione assistita, perché c'è una novità, nel senso che la ministra della Salute Lorenzin ha firmato ufficialmente le nuove linee guida della fecondazione assistita, che comprende anche l'eterologa, dopo vari colpi, diciamo, che ha dato la Corte Costituzionale alla legge 40, che è piuttosto cambiata, quindi si è adeguata, si è aggiornata e dovrebbe uscire a giorni, insomma, sulla Gazzetta Ufficiale. Capiremo quali sono le novità più importanti. Poi ci occuperemo anche del blitz antiterrorismo che c'è stato in Italia, che è stato molto lodato anche da Renzi, e che fa appunto pensare non solo che le forze dell'ordine agiscono bene, ma anche che il rischio è sempre, l'allerta è sempre alta. Ci occuperemo anche di meteo, per stare un po' più leggeri con il caldo che sta arrivando, un'ondata di caldo fino più o meno al 10 luglio. E poi ci sono sempre anche i mondiali femminili, qui siamo proprio ormai agli sgoccioli. Per voi, come sempre, lo sapete, ci sono due canali di interazione qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì sempre per voi giorno e notte, e poi i messaggi al 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Restiamo sull'argomento Grecia, se volete, e direi: temete voi l'esito di un eventuale no al referendum greco? Mentre voi riflettete, vi racconto la giornata. La crisi greca: Tsipras resta al tavolo negoziale ma conferma il referendum e chiede di votare no. Juncker avverte: stop ai contatti con Atene sino al voto. Renzi a Berlino: il referendum greco è un errore, dice, ma sono più preoccupato per il terrorismo che per la Grecia. Blitz antiterrorismo, arresti in varie città, coinvolta anche l'italiana partita nel 2014 per unirsi al sedicente califfato. La quindicenne violentata a Roma, fermato un militare che doveva partire per una missione, ripreso dalle telecamere, tradito dalla bici e dalle telefonate. Egitto, l'ultimo bilancio ufficiale degli scontri nel nord del Sinai e di almeno 100 terroristi uccisi e di 17 morti tra i militari. La svolta tra Stati Uniti e Cuba, le rispettive ambasciate riapriranno a partire dal 20 luglio, Obama commenta, le nuove relazioni sono un passo storico. Fecondazione assistita, la ministra Lorenzin firma le nuove linee guida che prevedono anche l'eterologa. TV: è morto Sergio Solli, ma regista e sceneggiatore, aveva 94 anni, fu protagonista della stagione degli spaghetti western e firmò il Sandokan televisivo. Calcio: dal Barça 80 milioni per Pogba, la Juve dice no. E nei mondiali femminili in Canada, gli Stati Uniti battono in semifinale la Germania, poi tocca Giappone e Inghilterra. Naturalmente prendiamo il via dalla crisi greca con il primo ministro Tsipras, che resta al tavolo negoziale, conferma però il referendum di domenica e scrive una lettera ai creditori. Una lettera di sole due pagine in contrapposizione ai corposi dossier che abbiamo visto circolare nelle ultime settimane. Con l'intestazione dell'ufficio del primo ministro ellenico, la missiva si rivolge ai leader delle tre istituzioni con le quali il governo Tsipras ha trattato negli ultimi mesi. In cinque punti l'esecutivo pone le sue condizioni, facendo sostanziali concessioni ai creditori, al punto che c'è chi vi ha visto una mossa disperata. Sull'IVA Tsipras accetta le proposte dei creditori ponendo una sola condizione: il mantenimento dello sconto del 30% riservato alle isole per le nuove aliquote. Una richiesta che non piace a Bruxelles, sia perché originerebbe ammanchi importanti nelle casse dello Stato, sia perché perpetuerebbe un sistema fiscale troppo complesso. L'altro punto di contesa con l'Europa, le pensioni, figura al terzo posto. Qui Tsipras garantisce la piena implementazione della riforma 2010, ma chiede che quella 2012 goda di un periodo di transizione più lungo. Il governo ellenico chiede anche che il bonus bonus di solidarietà assegnato ai pensionati più poveri venga portato a conclusione entro la fine del 2019. Gli altri punti riguardano le misure fiscali, col differimento dei tagli alla difesa e il mercato del lavoro, e azioni di politica industriale, ad esempio su concorrenza, oligopoli e lotta alla corruzione. I nostri emendamenti sono concreti e rispettano pienamente la robustezza e la credibilità del piano complessivo, premette Tsipras nell'introduzione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di crisi greca hanno parlato a Berlino il presidente del Consiglio Renzi e la cancelliera Merkel. Da Roma a Berlino la risposta dell'Italia alla crisi greca è a rischio contagio univoca. L'Italia ne è immune perché procede nel cammino delle riforme, lo dice accanto ad Angela Merkel, che plaude al suo discorso, il premier Matteo Renzi. Oggi io non sono soddisfatto, però le riforme sono partite, la data chiave sarà quella del giugno 2016 con il referendum costituzionale. L'Italia è tornata in pista e ha voglia di correre più veloce di tutti. E il premier non manca anche di criticare il referendum deciso dal governo greco. Io credo che la scelta di fare il referendum in Grecia, a mio avviso, sia un errore, ma rispetto naturalmente la volontà del popolo greco. Non è possibile fare la guerra all'evasione fiscale in tutto il mondo e poi non far pagare le tasse agli armatori greci. A Montecitorio intanto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan rassicura sull'esposizione italiana, che è il terzo creditore della Grecia. Non temiamo ripercussioni di ampia portata sulla nostra economia. L'esposizione del settore bancario rispetto alla Grecia è molto limitata, inferiore a 1 miliardo di euro. In aula Sell espone la bandiera greca sui banchi. Renato Brunetta di Forza Italia parla di ribellione alla Merkel. Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle dice di non fidarsi di Padoan. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora il terrorismo internazionale, con l'allarme che resta alto anche in Italia. Oggi ci sono stati due operazioni tra Milano e Roma che hanno portato a numerosi arresti, 10 nel capoluogo lombardo qui a Milano. Più tardi, comunque, vi dicevo, ne parleremo in modo più approfondito. Tra l'altro è coinvolta anche questa 28enne italiana che si è convertita all'Islam. Andiamo sulle notizie dall'estero. La svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Il segretario di Stato americano John Kerry visiterà Cuba quest'estate, lo ha annunciato il presidente americano Obama, confermando che l'ambasciata americana a Cuba e quella cubana negli Stati Uniti apriranno il 20 luglio dopo 54 anni. Oggi ristabiliamo le nostre relazioni diplomatiche con Cuba, ha detto Obama parlando di passo storico. In Egitto l'ultimo bilancio ufficiale degli scontri nel nord del Sinai è di almeno 100 terroristi uccisi e di 17 morti tra i militari, di cui 4 ufficiali. Lo hanno reso noto in serata le forze armate egiziane, stando alla TV di Stato. Non ci fermeremo mai fino a quando non avremo purificato il Sinai dai terroristi, si legge nel comunicato. E ora di nuovo in Italia con la cronaca. Per lo stupro della ragazzina, la quindicenne, nel quartiere Prati a Roma è stato fermato un militare. Era di passaggio a Roma prima di imbarcarsi per una missione militare. 31 anni, originario della provincia di Cosenza, è stato riconosciuto senza alcun dubbio dalla quindicenne che racconta di essere stata violentata a Roma lunedì sera vicino a Piazzale Clodio. Ad incastrarlo la sua bicicletta, parcheggiata vicino al luogo dell'aggressione. A recuperarla il fratello del quale l'uomo era ospite in questi giorni a Roma. Facile poi per gli inquirenti risalire a lui, che non ha saputo giustificare la sua presenza in quella zona proprio lunedì sera, quando, secondo il racconto della ragazza, si sarebbe finto poliziotto e, con il pretesto di infliggere una sanzione alla giovane perché beveva birra con le amiche, si sarebbe fatto seguire per un accertamento sui documenti. È a quel punto che avrebbe parcheggiato la bicicletta e trascinato a forza la ragazza in un parchetto vicino. Ora è accusato di violenza sessuale aggravata. Il fratello invece è stato denunciato per favoreggiamento. In tempi record i nostri investigatori hanno individuato l'autore del fatto, ha commentato con soddisfazione il questore di Roma Nicolò D'Angelo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre per la cronaca, oggi a Cagliari c'è stata una rapina in banca. Si sono arresi, poi sono stati arrestati da polizia e carabinieri che li attendevano fuori dalla banca, e due banditi che questo pomeriggio hanno assaltato una filiale del Banco di Sardegna, tenendo tra l'altro in ostaggio 4 dipendenti. E ci sono queste novità sulla fecondazione assistita. La ministra della Salute Lorenzin oggi ha firmato le linee guida sulla fecondazione, provvedimento molto atteso dalle coppie interessate a queste tecniche e dagli operatori del settore, che entrerà in vigore con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Poi anche su questo entreremo più nei dettagli con una costituzionalista che si è occupata per tanto tempo anche delle coppie che hanno fatto ricorso. Si parla anche di saldi che da domani partono in Campania, Basilicata, Puglia e Marche. Seguiranno il 3 luglio, anzi domani in Campania, poi Basilicata, Puglia e Marche. Marche il 3 luglio, mentre si dovrà attendere sabato 4 luglio, pochi giorni ancora, nelle restanti regioni d'Italia. Un lutto nella televisione. Sergio Sollima, regista e sceneggiatore, è morto la notte scorsa a Roma, aveva 94 anni, protagonista della stagione di Spaghetti Western, firmò il fortunato Sandokan televisivo. Per il meteo è in arrivo un'ondata di caldo sull'Italia che dovrebbe durare almeno sino al 10 luglio, ma poi sentiremo le previsioni direttamente da Paolo Corazzon. Per il calcio c'è Dario Ricci che non ci parla proprio di partite, di calcio mercato, di cui vabbè si parla in questi giorni, ma sei stato a un evento particolare, Dario? Sì, stasera più moda. Sei stato modaiolo se mi permetti stasera. Stirei i panni del grande stilista, no, il grande stilista è del gossiparo, diciamo. Ecco, più ecco. Del cronista di gossip, no, il grande stilista è stato Giorgio Armani che qui a Milano nella sua Amazon ha presentato insieme al presidente del CONI Malagò le divise ufficiali dell'Italia per i prossimi giochi olimpici di Rio 2016, molto belle devo dire, blu scuro e oro, un benaugurante oro, i colori dominanti, immancabile il tricolore, ma anche il 7, che è il simbolo dell'Emporio Armani a 7. Quindi serata glamour, benaugurante in vista dei giochi olimpici, tanto oro, ecco, speriamo che poi queste previsioni benauguranti vengano poi confermate a Rio fra 13 mesi. Grazie Dario Ricci, e dopo questi dettagli di moda per le prossime Olimpiadi, invece soffermiamoci sui mondiali femminili di calcio che sono sempre in corso in Canada, però stiamo arrivando un po' agli sgoccioli. Martina Angelini, commentatrice di Eurosport, esperta di calcio femminile. Ciao Martina. Sì, ciao Roberta, sì, siamo arrivati agli sgoccioli perché ieri si è giocata la prima semifinale nella notte dove hanno vinto gli Stati Uniti 2-0, tra l'altro una partita bellissima dove la Germania solo 0-0 ha sbagliato un rigore, quindi veramente una gara molto molto combattuta. Quindi americana in finale, e stanotte, sempre a partire dall'1, c'è Giappone-Inghilterra, con l'Inghilterra grande sorpresa che gioca un buon calcio, però è riuscita comunque zitta zitta ad arrivare fino alla semifinale. Giappone, campione del mondo in carica, che quindi una sorpresa non lo è più, e stanotte sapremo chi arriverà a giocarsi la finale contro gli Stati Uniti. Giappone-USA, tra l'altro, fu la finale di 4 anni fa, quindi sarebbe una rivincita importante per le americane. Anche se gli inglesi ci credono, anche il principe William ha fatto loro gli auguri, Sì, tutti, anche i calciatori, David Beckham, Wayne Rooney, lì insomma è scoppiata un po' la febbre del calcio femminile. In Inghilterra è un movimento in crescita, comunque tutti i club professionistici maschili hanno il settore femminile, però diciamo che questo mondiale ha fatto crescere ancora di più l'attenzione, e ovviamente in Inghilterra tutti si augurano che siano tante le bambine che dopo questo mondiale inizino a giocare a calcio. Speriamo. Martina, tu vuoi fare una previsione, ti vuoi esporre? Senti, io vedo, per quanto riguarda stanotte, il Giappone favorito anche per la maggiore esperienza a giocare queste gare. Secondo me gli Stati Uniti sono più forti di entrambe, però poi sai, la finale... Quindi sarebbe una finale, secondo te, Stati Uniti-Giappone, dovrebbe vincere gli Stati Uniti, dovrebbero vincere? Secondo me sì, almeno secondo me sono favoriti, però erano favoriti anche 4 anni fa e vince il Giappone, quindi... Vabbè, non portiamo sfortuna allora. Va bene, allora domani Martina Angelini... Sì, a domani, così vi dico come è finita. Buona partita stanotte per chi la vuole seguire su Eurosport, a no? A luna. A luna meno un quarto. Vale la pena di rimanete svegli naturalmente anche per tutto l'effetto notte, e leggo intanto qualcuno dei vostri messaggi che sta arrivando sia sulla pagina Facebook del programma sia al 349-238-6666. Leo da Roma dice: non temo il no al referendum, lo auspico. Andrea da Bologna scrive: la Grecia scrive la storia col no, fa cadere l'altro muro di Berlino, quello dei burocrati e dei mercanti. Poi anche sulla pagina Facebook di effetto notte Paolo scrive: totalmente d'accordo con Antonio. Devo andarmi a vedere l'altro messaggio di questo Antonio. Antonio Groppi: vorrei solo ricordare, dice Antonio, ai supporter di Tsipras, che un default incontrollato della Grecia dovrebbe costare molto caro all'Italia, nella peggiore delle ipotesi anche 65 miliardi. E poi Paolo, che si trova d'accordo con Antonio, ci aggiungo che la Grecia non può restare in Europa a spese nostre, che dimostrino un po' di spirito di sacrificio e comincino sul serio a riformare lo Stato. Continuo con i vostri messaggi dopo, voi continuate con le vostre riflessioni. Aggiorniamo chi viaggia e ci ritroviamo con gli altri temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora i vostri messaggi, sempre al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ogni tanto ve lo ripeto. Adriana scrive a proposito di timori su un eventuale no al referendum greco di domenica. Dice: mi sembra che chi teme sia la tedesca e non tutti gli altri. Ma adesso approfondiremo questo tema tra poco. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, invece che alle 21 puntuali, quali sono le notizie più importanti della giornata. La Merkel gela Tsipras sulla Grecia, decide il referendum, così commenta Merkel. E poi dall'Europa, stop dall'Europa ai negoziati, c'è un drammatico appello TV di Tsipras al no per quanto riguarda il referendum. Poi Renzi invece annuncia un altro referendum sull'onda del referendum per il giugno 2016 per le riforme costituzionali, anche se è una cosa di cui aveva parlato naturalmente anche in passato. E la cancelliera Merkel plaude alle riforme italiane, dice addirittura che sono impressionanti. Blitz antiterrorismo in Italia, arrestati 4 foreign fighters italiani in manette, padre, madre e sorella della jihadista Fatima. Egitto, offensiva contro l'ISIS nel Sinai, decine di militari uccisi. Il Cairo dice: siamo uno stato in guerra, e Israele dice: ormai sono vicini anche a noi. Per quanto riguarda la quindicenne violentata a Roma, in carcere un militare, un giovane militare, lei lo riconosce, lui dice, si difende dicendo che è stato un rapporto consensuale. Sale il potere d'acquisto delle famiglie che tornano a risparmiare in Italia, e poi questa svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, riaprono le ambasciate, riaprono per il 20 luglio e Obama dice via l'embargo che non ha funzionato. E siamo, come ormai da tanto tempo, sulla Grecia, con i negoziati che si fanno sempre più difficili. Anche oggi c'erano aggiornamenti di minuto in minuto, diventa veramente difficile stare dietro a questa infinita trattativa. Però prima di scendere nei dettagli di questa giornata molto convulsa, ci colleghiamo con la nostra Valeria De Rosa, che è atterrata da un po' ad Atene. Ciao Valeria. Buonasera Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Che clima hai respirato all'aeroporto, per la strada che hai percorso finora? Sai che anche da parte degli italiani, tutti amiamo un po' la Grecia, il turismo, fare turismo in Grecia, però adesso si immaginano queste file ai bancomat, la difficoltà anche di fare la spesa nei negozi. Allora Roberta, devo dirti che io sono stata qui anche a gennaio a seguire le elezioni, e certo si respirava un clima più euforico sicuramente, poi la città è esplosa nel momento in cui ha vinto Tsipras. Arrivando questa sera all'aeroporto l'ho trovato un po' sottotono rispetto alle altre volte, poca gente, nessuna fila ai taxi, però arrivando in città devo anche dirti che non ho visto nemmeno le file ai bancomat, al massimo 2 o 3 persone che attendevano con molta tranquillità il proprio turno, il che vuol dire da una parte che forse c'è stata una corsa delle prime ore, quando ovviamente sono stati chiusi gli istituti di credito, la corsa al contante, e un po' ricordiamo anche che comunque gli ateniesi sono poche le famiglie che ormai possono permettersi un tenore di vita molto alto, gli altri, molti greci, vivono poco al di sopra della soglia di povertà, quindi poi tutto questo contante da ritirare dalle banche non ce l'ha, non dici. C'è, ecco. Quindi per il resto devo dirti che la città, come sempre è stato anche in passato, l'ho trovata molto ordinata, molto pulita, sicuramente è aumentato il numero delle persone che dormono in strada, ma anche lì per quanto possibile, anche perché i greci sono un popolo molto orgoglioso e molto dignitoso, chiunque si appresti a costruire il proprio giaciglio in strada lo fa con almeno quel po' di dignità che gli è rimasto. Quindi questo è attualmente il clima che si respira in città. Il tassista che mi ha portato dall'aeroporto fino in albergo era un tassista che parlava poco inglese, molto poco, e questo è un segno del fatto che ormai tutti cercano di riciclarsi in quelle poche attività che ancora un pochino rendono, e nel suo inglese molto stentato mi ha detto che la situazione è molto difficile e che c'è un testa a testa tra il sì e il no. Siamo passati davanti all'Ateneo, all'università greca, che qui è ovviamente come in tutte le città un polo di aggregazione, e in quel momento c'era una piccola manifestazione con molte bandiere rosse, e dalla sommità, perché davanti all'università ci sono le colonne, una sorta di tempio, cadeva un lunghissimo drappo che copriva anche l'ingresso, con una scritta no enorme, quindi diciamo che il messaggio degli studenti greci è molto chiaro. Grazie di questa fotografia da Atene, Valeria De Rosa. Ciao Valeria. Grazie a te. Buon lavoro, ciao. Buona permanenza. E adesso di Grecia continuiamo a parlare con Antonio Villafranca, che è responsabile del programma Europa dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ciao Antonio, bentornato. Grazie a voi, buonasera. Oggi è stata davvero una giornata in cui, da mal di testa devo dire, per chi fa il mio mestiere, che deve preparare una trasmissione tra vari argomenti, continuare a seguire ogni poco gli sviluppi del negoziato sulla Grecia, perché Tsipras, per riassumere proprio in estrema sintesi, ha detto la Grecia resta al tavolo negoziale, vogliamo un accordo ma che sia sostenibile, poi ha invitato a votare no al referendum, quindi dice restiamo al tavolo negoziale, però votate no al referendum, votare no non significa uscire dall'euro, ha precisato. Poi la cancelliera Merkel, che nel frattempo ha detto i miei rapporti con Tsipras, i miei rapporti personali non sono danneggiati, e questo non può che farci piacere. Naturalmente Juncker, presidente della Commissione Europea, ha detto di prepararsi agli effetti del no, eventuali effetti del no al referendum, e poi diciamo che ha chiuso un po' drasticamente dicendo stop ai contatti con Atene fino al voto. Sì, io credo che questo sia il momento in cui tutti i leader politici, da Tsipras alla Merkel, devono prendersi le proprie responsabilità. Io mi rifiuto categoricamente di credere che tutto si giochi sullo zero virgola. Io non posso assolutamente pensare che una decisione così drammatica e storica al tempo stesso, come appunto il fallimento di un paese come la Grecia, si possa basare su un decimale in più o meno dell'avanzo primario della Grecia. Non può evidentemente essere questo. C'è qualcos'altro in gioco. E già da giovedì era abbastanza chiaro che le posizioni tra il governo greco e i creditori e diciamo il resto dell'Europa, il Fondo Monetario, non erano lontanissime. Si può discutere tantissimo sulla percentuale dell'aliquota, se era più giusto il 13%, il 23% sugli hotel, ma evidentemente non è quello. Il no di Tsipras al piano è stato un no ideologico, e io credo che sia un errore. Un errore perché un leader politico di fronte a una decisione di questo tipo deve a un certo punto anche avere una buona dose di realismo. Così come non si doveva arrivare, è stato un errore ad esempio di Merkel e Sarkozy quando nel 2011 hanno detto che i privati dovevano partecipare all'ERCAT del debito greco, avviando appunto tutto poi il percorso che ha portato fin dove siamo adesso. Quindi c'è stato un errore sicuramente degli altri paesi europei, ma adesso c'è anche un errore da parte del governo greco, e in questo momento di responsabilità di tutti bisognerebbe dire la verità. Quando Tsipras dice che il referendum è semplicemente sì o no al piano, non c'entra nulla l'uscita dall'euro, essenzialmente non dice la verità. Ed è giusto dire le cose come stanno. Il rischio è altissimo che nel momento in cui appunto il piano venisse rifiutato, la Grecia andrebbe in default, la Banca Centrale Europea chiuderebbe i rubinetti, non darebbe più liquidità alle banche greche, e obiettivamente io non vedo altra possibilità se non un'uscita, diciamo, non formale ma tecnica della Grecia dall'euro. Ma Antonio Villafranca, il fatto che appunto Tsipras, come dicevamo, dice restiamo al tavolo negoziale, ha poi scritto anche una lettera all'Eurogruppo, però dice il referendum resta e votate no, invita i greci a votare no, può essere una specie di dimostrazione di forza, di dire io intanto li faccio votare e vedrete che magari appoggiano questa mia linea dura, però nel frattempo resta sempre la possibilità di negoziare, perché in fondo anche ieri la cancelliera Merkel aveva detto, forse mettendo un po' le mani avanti, ieri o l'altro ieri aveva detto vabbè, ma anche se dovesse esserci il no poi si possono riprendere le trattative, quindi in realtà... Ma questo, guarda, sinceramente non c'è un analista che non abbia assolutamente chiaro che anche se ci fosse l'accordo su questi ultimi 7 miliardi da dare alla Grecia, Comunque bisognerebbe avere un nuovo pacchetto di aiuti e un nuovo pacchetto di salvataggio per la Grecia. Il debito pubblico greco è assolutamente sostenibile. Il punto vero è sostenibile o insostenibile? Insostenibile, assolutamente insostenibile. È chiaro a tutti gli analisti che è necessario un ulteriore taglio. Sono calcoli diversi, c'è chi dice che intorno al 25-30%, chi arriva anche al 50%. Allora, il punto è però fondamentale è a partire da quale momento questo nuovo pacchetto di salvataggio della Grecia deve essere negoziato. Il rilancio che ha fatto negli ultimi giorni Tsipras è stato quello di dire dateci questi 7 miliardi che ci dovete così noi paghiamo il Fondo Monetario Internazionale, ma al tempo stesso negoziamo un nuovo pacchetto di 29 miliardi di euro per i prossimi 2 anni che sono quelli che ci impedirebbero poi comunque di fallire, perché se anche gli dessimo questi 7 miliardi comunque si riaprirebbe un nuovo problema, perché più di 20 miliardi sono quelli che la Grecia deve comunque rimborsare entro la fine dell'anno. Allora è quella la questione, cioè da quando iniziamo a negoziare? Forse in questo momento era necessario chiudere su questi 7 miliardi e farsi magari dare, come era peraltro anche disposto, sembrava disposto a fare Juncker, a fare un impegno a partire immediatamente con la negoziazione di un nuovo pacchetto di aiuti, ma chiederlo immediatamente, chiederlo subito adesso, mentre si chiede anche di fare il referendum, obiettivamente non lo trovo da un punto di vista negoziale qualcosa di strategicamente particolarmente brillante. Anche se una risposta a modo suo, dal suo punto di vista, ce la dà in questo momento il ministro dell'economia Varoufakis, vedo un'agenzia, una sua dichiarazione, che dice negoziare un nuovo programma di aiuti perché il precedente è scaduto, e dice il referendum ha avviato una discussione in Europa su ciò che è sostenibile e ciò che non lo è. La proposta dei creditori, dice Varoufakis, era da prendere o lasciare. Abbiamo pensato che non ci sarebbe stata sostenibilità già dal giorno successivo, quindi effettivamente è un tentativo, non dico una prova di forza, ma cercare di tirare i creditori verso di sé, un po' con questo spauracchio del referendum, soprattutto se votasse no il popolo greco. Sì, assolutamente, non ci si voleva assumere le responsabilità relative all'ultima tranche e si voleva immediatamente passare appunto a un nuovo piano di aiuti, ma questo non c'erano neanche i tempi tecnici per negoziare un nuovo piano di aiuti. Ci vogliono settimane se non addirittura mesi. Obiettivamente è difficile pensare che gli altri leader europei, che la Banca Centrale, ma anche che il Fondo Monetario Internazionale si possano mettere d'accordo nel giro di ore rispetto comunque a un piano ancora che non esiste, che è una proposta buttata lì all'ultimo momento. È necessario avere una buona dose di realismo, i nervi saldi e prendere da parte di tutti la responsabilità politica di quello che si fa. Farei sentire qualche passaggio di Renzi, una cosa che ha detto abbastanza coraggiosa prima di andare a Berlino oggi, l'incontro con la Merkel, a proposito di austerità, del fatto a chi sia convenuto o meno. Sentiamo. Questa visione economica tutta incentrata sull'austerità e sulle ragioni di un bilancio di rigore in questi anni non ha funzionato. Forse, e dico forse, ha funzionato per la Germania, ma non ha funzionato per l'Europa. Quindi una cosa, almeno quando era lontano dalla Merkel, l'ha detta, per dire, ha funzionato per la Germania ma non per l'Europa. E poi, vuoi dire qualcosa Antonio? Se lo passavo io vorrei aggiungere proprio su questo per una cosa. Questa c'è una percezione riguardo all'austerità che è completamente diversa tra il sud e il nord dell'Europa. Basta andare in Germania, in Olanda, in Austria e lì l'austerità è considerata un successo. Attenzione, cioè io sono anch'io contrario a un atteggiamento che è in maniera sterile orientata all'austerità, ma non è questa la percezione che si ha nel nord. Loro dicono, vedete, l'Italia sta tornando a crescere, vedete, il Portogallo sta tornando a crescere. Ma ci sono anche molti studi, ad esempio, che dicono, obiettivamente non è difficile anche negarlo, che nel caso in cui ad esempio non ci fosse stata austerità in Grecia, in un paese che ha un sistema industriale praticamente al collasso, assolutamente non competitivo, in mancanza di austerità certo si sarebbero sostenuti i consumi, ma questo avrebbe voluto dire che la Grecia avrebbe importato di più, avrebbe avuto un saldo negativo delle partite correnti ancora maggiore e avrebbe avuto bisogno di maggiori prestiti da parte nostra. Questo è un altro aspetto che va considerato, non perché appunto io difenda l'austerità, ma è anche giusto capire quali sono le posizioni degli altri paesi. Poi l'austerità che impedisce gli investimenti, che impedisce di investire sul futuro, è assolutamente sbagliata. Io ritengo che ad esempio il piano Juncker sia una cosa buona, ma sia assolutamente insufficiente. Il Fondo Monetario Internazionale, ad esempio, dice che rispetto al trend pre-crisi in Europa mancano 300 miliardi di investimento all'anno. Il piano Juncker parla di 300 miliardi in 3 anni. Allora è evidente che si deve dare la possibilità ai paesi di sforare, ad esempio sul 3%, ma controllando che lo sforamento riguardi soltanto gli investimenti produttivi. Antonio Villafranca, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Se vuoi ricapitolare che cosa prevede questo referendum, su cosa effettivamente si vota e sulle possibili conseguenze del sì e del no, proprio se riesci a sintetizzare. Sarò brevissimo. Nel caso in cui vinca il no, questo vuol dire che viene spazzato via il piano, i 7 miliardi, il piano di salvataggio per cui si prevedeva l'ultima tranche da 7 miliardi, questi 7 miliardi non verranno dati, molto probabilmente quindi si realizzerebbe il default della Grecia nei confronti dei privati a cui vanno restituiti dei soldi, ma anche nei confronti ad esempio del Fondo Monetario Internazionale, ma anche il 20 ad esempio luglio la Grecia deve dare circa 3 miliardi anche alla BCE, che quindi taglierebbe la liquidità straordinaria in maniera definitiva probabilmente nei confronti delle banche greche e il default sarebbe inevitabile a meno appunto di un nuovo pacchetto improvviso di salvataggio. Se vincesse il sì, a questo punto però la situazione non è così facile, perché molto probabilmente il governo cadrebbe e forse si andrebbe verso un governo di unità nazionale che a questo punto firmerebbe l'accordo, si sbloccherebbe i 7 miliardi e forse si potrebbe appunto evitare il default. Per il momento attendiamo, grazie intanto. Grazie Antonio Villafranca. Ciao Antonio. Prima di lasciarci brevemente per una pausa di creazione, ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook e il 349-238-6666. Ringrazio Maria da Brescia. E poi questo messaggio: io sono per il sì, Tsipras si nasconde dietro la scusa, io sono con il popolo, mentre ha l'obiettivo di tutelare il suo stato clientelare e stato che paga tutto. Yorgos si firma, mi piacerebbe come greco venire in onda. In questo momento non è possibile, vediamo più in là. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E eccoci insieme, Roberta Giordano, sempre con voi. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, le vostre riflessioni sulla situazione della Grecia e se ritenete di potervi preoccupare nel caso di un no al referendum che ci sarà domenica. Scrive Francesco da Piacenza: spero nel default della Grecia, punirne uno per educarne 100, vedi Grillo, Salvini, eccetera. E poi Sebana scrive: se la Grecia non paga i suoi debiti, dovrà pagare l'Italia ai creditori della Grecia. Siamo il terzo paese più esposto. E poi gli altri messaggi dopo, continuiamo con le riflessioni sulla Grecia, adesso ci sono però altri temi. Intanto vi ricordo le notizie più importanti della giornata. A partire dalla crisi greca, naturalmente, con Tsipras che resta al tavolo negoziale ma conferma il referendum e chiede di votare no a Juncker, presidente della Commissione Europea, che avverte stop ai contatti con Atene sino al voto. Renzi a Berlino ha detto che il referendum greco è un errore, ma sono più preoccupato per il terrorismo che per la Grecia. Infatti oggi c'è stato un blitz antiterrorismo, arresti in varie città, coinvolta anche un'italiana partita nel 2014 per unirsi al sedicente califfato. La quindicenne violentata a Roma, ha fermato un militare che doveva partire per una missione, ripreso dalle telecamere e inchiodato dalla bici e dalle telefonate. Egitto, l'ultimo bilancio ufficiale degli scontri nel nord del Sinai di almeno 100 terroristi uccisi e 17 morti tra i militari. La svolta tra Stati Uniti e Cuba, le rispettive ambasciate riapriranno a partire dal 20 luglio. Obama commenta: le nuove relazioni sono un passo storico. Fecondazione assistita, ne parleremo tra pochissimo. E per la TV è morto Sergio Solli, ma regista e sceneggiatore, maestro degli spaghetti western, e firmò il fortunato Sandokan televisivo. Quindi tra i temi importanti di oggi c'è questa novità che riguarda la fecondazione assistita, ovvero che la ministra della Salute Lorenzin ha firmato le linee guida, quindi c'è via libera anche all'eterologa fra le novità. Con questa firma, quindi il documento appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore queste nuove norme, queste linee guida. Tra le novità anche la possibilità della doppia donazione, cioè sia di ovociti che di spermatozoi per una gravidanza. Con coinvolgo subito Marilisa D'Amico. Buonasera professoressa. Buonasera. Che è docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa Legale. Un componente, vicepresidente componente. L'anno scorso. Ah beh, comunque. Ruotiamo, facciamo una volta all'anno. Molto bene, molto democratico. Sì. Legale delle coppie che hanno fatto ricorso alla consulta in tema di fecondazione eterologa, quindi ha seguito a lungo questo percorso accidentato della legge 40 che ha perso diversi pezzi con i vari ricorsi, no, di tante coppie, sì, e le sentenze della Corte Costituzionale. A che punto siamo arrivati? Quindi siete soddisfatta? Ma io direi assolutamente sì, anche perché la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 162 diceva appunto che dichiarando l'incostituzionalità dell'eterologa faceva riferimento alla necessità comunque di intervenire con linee guida anche per esempio per stabilire il numero massimo di embrioni per, cioè di donatori, di spermatozoi, di ovuli per il donatore. E quindi le linee guida erano assolutamente necessarie per completare poi e per dare piena attuazione anche alla sentenza della Corte Costituzionale. Quindi grande soddisfazione, ormai non ci sono più scuse e tra l'altro sono, diciamo, linee guida che mi stanno molto attente e scrupolose proprio nell'interesse dei pazienti e quindi non so, ma a me non sembra per ora, diciamo alla prima lettura, che ci siano particolari criticità, ma anzi sono veramente molto contenta che poi si possa procedere a questo punto, speriamo a sprombattuto, anche da parte delle varie regioni non ci siano più ostacoli o lentezze o insomma scuse. L'unico problema ancora mi sembra quello degli ovociti, no? dei gameti femminili, perché è un intervento un po' diverso quello della donazione di ovuli da parte delle donne volontarie. Qui c'è un po' il problema, qui c'è il problema chiaramente di ripristinare un qualche cosa che per anni è stato bloccato, quindi l'idea, diciamo, della cultura della donazione, di capire anche bene appunto come intervenire, quindi diciamo qui c'è tutto un problema di prassi che deve essere ristabilita, però è chiaro che a questo punto essendoci le regole sarà molto più facile per tutti intervenire, soprattutto anche per i centri che sono pronti a questo punto sapere come procedere nella legalità senza avere incertezze o insomma confusione. Tra l'altro, e questo mi sembra che sia anche comprensibile, tra le novità è esclusa la selezione delle, cioè tra le cose, i punti sottolineati, è esclusa la selezione delle caratteristiche fisiche, la cosiddetta eugenetica, no? Uno non può decidere lo voglio con gli occhi azzurri, lo voglio femmina, lo voglio maschio. Questa cosa, diciamo, non è mai stata possibile, cioè nel senso che e credo che insomma non sia stata mai fatta se non magari da qualche appunto medico che magari ha agito ovviamente non nel rispetto della legge. Questa cosa non era possibile, però è giusto comunque escludere, cioè diciamo che si ribadiscono nelle linee guida il fatto che non si sia il diritto, non le coppie abbia il diritto di diventare genitore, ma non di scegliersi sostanzialmente il figlio con le caratteristiche che vuole, come purtroppo succede in altri ordinamenti. Quindi insomma, per concludere, la legge 40, che era partita nel 2008, è stata aggiornata da un punto di vista tecnico-scientifico, ma direi anche decisamente giuridico. Marilisa D'Amico. Sì, la legge 40, diciamo, è stata piano piano ricondotta, se vogliamo, a ragionevolezza, al fatto di essere una legge che a questo punto bilancia e si adegua ai principi costituzionali, si può fare la fecondazione omologa secondo la sentenza del 2009 della Corte Costituzionale e quindi adesso appunto poi integrata dalle linee guida, per la fecondazione eterologa si spera che a questo punto si possa partire bene. Tra l'altro il ministro Lorenzin ha introdotto nei luoghi, nei livelli essenziali di assistenza anche la fecondazione medicalmente assistita, e questa è una cosa molto importante perché la pronuncia della Corte Costituzionale anche sulla fecondazione eterologa ha sempre fatto riferimento ai principi violati, soprattutto a quello della discriminazione economica fra le coppie. Mm. E quindi insomma il mio rammarico dopo un anno all'entrata in vigore della legge è che anche in Italia le coppie infertili e sterili subiscono ancora adesso una grave discriminazione economica, quindi è importante proprio che poi a questo punto tutte le coppie, anche quelle meno abbienti, poi possano accedere a queste tecniche. E in buona parte per merito suo. Grazie professoressa D'Amico. Grazie, no, mi dà troppo onore, siamo tutto un pool di avvocati, abbiamo lavorato tanto e soprattutto merito delle coppie che sono state coraggiose, si sono insomma volute esporre e hanno avuto questa vittoria poi per tutti gli altri, non solo per loro. Grazie ancora, buona serata. Buonasera. Grazie. Adesso, prima di lasciarci brevemente, di aggiornare chi viaggia, Paolo dice il referendum dovrebbe farlo l'Europa, se tenere o no dentro l'Unione Europea la Grecia, che è un anno che ci prende per il di dietro, insomma, dice Paolo. E poi il no greco, scrive un altro ascoltatore, può aprire uno spiraglio anche per l'Italia, cooperazione con i BRICS, quindi i paesi in via di sviluppo emergente, anzi ormai emersi, per ripresa economica reale. Viabilità. Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccole in pochi secondi, sempre naturalmente in primissimo piano il negoziato senza fine con la Grecia, con la cancelliera Merkel che gela Tsipras, che chiede un nuovo piano. Lei dice decide ormai il referendum, aspettiamo il voto, mentre Tsipras conferma il voto e anche la sollecitazione a votare no. Renzi invece annuncia il referendum sulle riforme costituzionali per il giugno 2016 in Italia e la cancelliera Merkel plaude alle riforme, addirittura considerate impressionanti. Questa è l'espressione che ha usato. Blitz antiterrorismo in Italia, arrestati 4 foreign fighters italiani in manette, tra l'altro madre, padre e sorella della jihadista Fatima, una 28enne che si è convertita all'Islam. In Egitto, offensiva dell'ISIS nel Sinai, decine di militari uccisi. Il Cairo dice siamo in stato di guerra e anche Israele teme, dice i jihadisti sono ormai vicini. La 15enne violentata a Roma, in carcere un militare, lei lo riconosce e lui si difende dicendo è stato un rapporto consensuale, ma le telecamere e altri elementi lo inchiodano, dicono gli inquirenti. E poi la svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Cuba, che già era stata annunciata da qualche settimana, riaprono le ambasciate, riapriranno il 20 luglio. Obama dice via l'embargo che non ha mai funzionato. Europa 24 notte. Parliamo di cultura europea col premio Strega Europeo, un'Europa unita attraverso la cultura, la letteratura e anche la propria diversità linguistica in un momento in cui sembrano prevalere divisioni negli altri campi. Questo è l'obiettivo del premio Strega Europeo, iniziato proprio iniziativa promossa dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci con la Casa delle Letterature, Letterature Festival Internazionale di Roma e con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Proprio questa sera l'annuncio del vincitore. È la scrittrice tedesca di origine ucraina Katia Petrovskaya la vincitrice del premio Strega Europeo, annunciata poco fa da Tullio De Mauro, presidente della Fondazione Bellonci, la più votata dalla giuria composta dagli scrittori vincitori del premio Strega, la scelta tra 5 finalisti. Ce ne parla Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria Goffredo Bellonci. Il libro dell'autrice ucraina Katia Petrovskaya mi ha colpito perché affonda la materia narrativa in una storia familiare dolorosa, giocata fra Germania, Polonia, Ucraina, nel momento delle persecuzioni antisemite sia da parte nazista sia da parte sovietica. Abbiamo poi un libro molto duro, a tratti cupo, ma assolutamente emozionante, che è quello dell'autore spagnolo Rafael Cirbes, che ci mette invece nella Spagna contemporanea, quella della crisi. Il libro dell'autore belga Stefan Hermans, che invece ci riporta alla prima guerra mondiale. Insomma, sono libri che si muovono tra storia e contemporaneità e ci danno le coordinate sia geografiche sia storiche del nostro continente. Ma come è nata l'idea di un premio Strega Europeo? Il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Lucio Battistotti. Nata da qualcuno che è un grande lettore, io sono un grande lettore e mi piacciono i libri sia come oggetti che anche come strumento di conoscenza degli altri, e ne parlai nella primavera dell'anno scorso con Maria Ida Gaeta, che è direttore della Casa delle Letterature, e con Stefano Petrocchi, che è il direttore della Fondazione Bellonci. Dicevo, pensate, dico, quest'anno, no? Parliamo dell'anno scorso, c'è il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, tutti ne parlano, quanto sarebbe bello se accanto al famosissimo premio Strega ci fosse anche un premio Strega Europeo. Allora parliamo, ne riparliamo e decidiamo in effetti di lanciare questo premio Strega Europeo, che ha una caratteristica principale: partecipano libri scritti e stampati nei 28 paesi dell'Unione Europea. Questi devono aver vinto nel loro paese un importante premio letterario e debbono essere stati tradotti in italiano negli ultimi 2 anni. Attraverso il premio Strega Europeo riusciamo a far conoscere libri scritti in altri paesi europei, cioè aiutandoci a conoscerli meglio. La mia intenzione era proprio quella, diciamo, cerchiamo di conoscerci meglio attraverso la letteratura, perché ogni libro è una finestra sull'altro paese. In un momento in cui d'Europa si parla quasi ed esclusivamente solo per problemi economici e tra virgolette disastri, cioè disoccupazione giovanile, eccetera, ecco, poter parlare anche di un'Europa diversa. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. collaborazione con Euronet Plus. Adesso passiamo invece a un'altra notizia molto importante di oggi, che è stato questo blitz antiterrorismo, un doppio blitz in realtà oggi in Italia, tra Lombardia, Toscana e anche però l'Albania, che ha portato a 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti presunti terroristi legati al sedicente Stato Islamico. Nella conferenza stampa che è seguita all'operazione, il procuratore di Milano Romanelli ha rassicurato sul fatto che non stessero preparando degli attentati, almeno in Italia. Non sono emersi elementi per dire che ci fosse una progettualità terroristica nel territorio dello Stato. Ne parliamo con Raffaella Calandra, la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Anche perché ha aggiunto poi Romanelli che è la prima volta che in Italia, probabilmente in Europa, si arriva a un risultato del genere nei confronti dello Stato Islamico. Sì, allora, l'operazione, l'inchiesta di oggi, quello che le carte soprattutto dell'inchiesta di oggi ci permettono di costruire è la voce di dentro dello Stato Islamico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che soprattutto attraverso un grande lavoro di intercettazione sono stati ricostruiti i passaggi, i viaggi, ma anche il modo di vivere, il modo di comportarsi di una serie di persone, a cominciare da una cittadina italiana, una ventenne italiana, partita appunto dall'Italia e arrivata in Siria e che dalla Siria faceva una operazione di proselitismo nei confronti innanzitutto dei suoi genitori, nei confronti poi della famiglia, del marito, quindi dei suoceri albanesi, e questo proselitismo lo fa in un modo che permette agli investigatori e quindi a noi oggi di ricostruire il modo in cui funziona e in cui si organizza il califfato. Così ad esempio racconta, innanzitutto si ricostruisce le tappe del loro viaggio dall'Interland milanese, passando per la Toscana, arrivando poi in Turchia, che è uno snodo fondamentale. Ecco che qui in Turchia c'è un emiro che gestisce e smista un po' tutti i foreign fighters che arrivano dall'Europa e che sono diretti in Siria. Quindi questo califfato viene raccontato anche nella sua parte più organizzativa e pratica, ad esempio nell'organizzazione anche di corsi per imparare il Corano, per imparare l'arabo, e poi una sorta di manuale, che questa ragazza Fatima, così secondo il nome che aveva preso una volta convertitasi all'Islam, il suo nome originario era Giulia Maria Sergio, originaria di Torre del Greco, invia ai suoi familiari un link con un manuale con tutte le istruzioni da seguire per fare questo viaggio verso la Jihad. Cioè, quello che è particolare davvero in questa inchiesta, che ha permesso innanzitutto di bloccare la partenza dei familiari di questa ragazza, che sarebbero diventati degli altri foreign fighters, degli altri diciamo militanti del califfato, è di capire come funziona questo Stato Islamico in Siria, che ha delle sue regole, delle precise anche mansioni diciamo interne, per cui le donne vengono mandate hanno un compito ben preciso, gli uomini vengono mandati nei campi di addestramento libici, e questo diciamo rappresenta effettivamente un unicum. Il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, che è il coordinatore della pool antiterrorismo di Milano, ha voluto soprattutto diciamo marcare su questo aspetto, e devo dire che poi quando ho letto le carte dell'ordinanza, che appunto ha raggiunto come ricordavi 10 persone, effettivamente sono rimasta sorpresa nel notare come in tutte queste intercettazioni avvenute soprattutto via Skype ci si presenti davanti agli occhi un affresco di questo mondo che oggi l'Europa tanto teme, ma che in realtà nel suo interno ancora non aveva così davvero conosciuto. Grazie Raffaella Calandra. Ciao, ciao Raffaella. Ciao, buonasera. Ora invece ventaglio alla mano, perché mi sa che Paolo Corazzon di Trebimeteo ci parlerà di un'ondata di caldo che sta per investirci, è vero Paolo? Mi sa che hai proprio ragione, ci si è arrivato l'anticiclone nordafricano preannunciato da giorni, ci rimarrà per diversi giorni sul nostro paese, ma in realtà non solo da noi, perché guarda, stiamo registrando valori record in mezza Europa, più di 40 gradi in Spagna, 40 gradi a Parigi, insomma ovunque ti giri fa molto caldo. Da noi temperature che nei prossimi giorni sfioreranno i 40 gradi, le zone più bollenti saranno la pianura padana e le regioni tirreniche, perché oltre alle temperature alte ci mettiamo anche l'umidità, quindi caldo afoso piuttosto pesante. Come se non passasse Roberta, in aumento anche le temperature notturne. Nel prossimo weekend temo che faremo anche fatica a prendere sonno la sera. Ma almeno non c'è più bisogno della copertina, no? Questo poco ma sicuro, ci puoi giurare. Paolo, noi ci risentiamo venerdì per le previsioni, diciamo, più circoscritte al fine settimana, però quando anche finirà quest'ondata? Hai detto intorno al 10 luglio dovrebbe finire quest'ondata, sì, di caldo? Guarda, durerà un 7-8 giorni, quindi andremo avanti fino all'8-10 di luglio, ma attenzione, non che poi l'estate chissà cosa combini, in realtà andremo avanti ancora con un periodo bello, probabilmente intorno al 10 di luglio ci riporteremo su valori semplicemente più accettabili, ecco, finita lì. Grazie Paolo Corazzona, venerdì allora. Grazie, buona serata. Ciao Paolo. Ancora vedo diversi vostri messaggi, vediamo se abbiamo il tempo ancora per poco. Eccolo qua un altro che dice: se sarà sì Tsipras deve dimettersi, se sarà no lo dimetteranno, non vogliono più averci a che fare, secondo questo ascoltatore o ascoltatrice, con Tsipras. Sarà interessante vedere anche il destino, se è stata soltanto una meteora oppure come andrà avanti il primo ministro greco. Vi ricordo c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, però adesso ci dobbiamo lasciare e torno giusto alle 22 per aggiornarvi.